Con noi Margherita Forleo di 01 Distribution per parlare del film The Post di Steven Spielberg uscito lo scorso giovedì. Intanto benvenuta, ben ritrovata. Grazie, buonasera a voi. Allora, raccontiamo intanto, no, ti chiedo subito i risultati di questo primo fine settimana del film di Spielberg. I risultati sono stati eccezionali perché il film è aperto con più di 2 milioni, 2 milioni e 3, pertanto è andato praticamente ad eguagliare i maggiori competitors europei che su un film di questa grandezza non è assolutamente cosa da poco. Ok, poi per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia, la trama di questo film. Allora, il film racconta in realtà qualcosa che un po' anche per sentito dire, credo ormai conosciamo tutti, di storia americana, quindi tutto quello che precede l'inizio del Watergate, tutto quello che ha significato per la cultura americana, i procedimenti che poi hanno coinvolto Nixon, i documenti del Pentagono. Pertanto è un film che riguarda quella fase di storia che tra l'altro gli americani hanno già altre volte analizzato anche nel cinema con altri film giganteschi, da Tutti gli uomini del presidente, tanto per citarne uno su tutti. Però in questo film, ed è questa la firma speciale come sempre di Spielberg, non è solo quello che la storia racconta, ma è quello che Spielberg mette dei personaggi, è l'essenza dei protagonisti che viene messa in realtà al centro, quindi quello che succede a due persone nell'affrontare questo grande scandalo americano. Tra l'altro, con un bel personaggio al femminile, sola in mezzo a un mondo che è quello dell'informazione, ma anche della finanza e della borsa e delle banche, sola in mezzo agli uomini. Esatto, e non per niente hanno scelto un personaggio come Meryl Streep perché ci voleva una donna molto donna per interpretare una parte di quel genere, perché lei, la signora Graham, è un personaggio molto particolare, nel senso che lei non è Wonder Woman, tutt'altro, lei è una donna con tutte le sue fragilità, una donna che è cresciuta in un sistema chiaramente maschilista, per cui dove ha sempre avuto un uomo che l'aiutasse o quantomeno, non dico le dicesse cosa fare, ma comunque che le desse una guida. E quindi a un certo punto, quando lei si trova ad avere invece lei le redini, a dover lei prendere delle decisioni, questo la porta inevitabilmente a operare innanzitutto un cambiamento come donna, come essere umano. È un personaggio bellissimo, credo sia la ragione per cui The Post alla fine è un film che credo che verrà apprezzato anche più dalle donne, perché al di là della bellezza del film in sé, ha questo carattere muliebre così importante che non siamo soliti trovare se non nelle supereroine, insomma. Un altro elemento importante è quello che questi dati interessano varie presidenze, dagli anni 50 fino al 1971, e sono coinvolti diversi presidenti in questa grande menzogna alla nazione. Certo, da Johnson, però ecco, sicuramente quello che viene citato maggiormente è Nixon, Sì. chiaramente, perché il periodo storico alla fine in cui sono venute fuori tutta questa serie di informazioni convergevano poi su di lui, però è chiaro che la guerra del Vietnam è durata tanti di quegli anni che è proprio questo il cuore, diciamo, del tratto giornalistico del film, che questi Pentagon Papers sono tonnellate e tonnellate di documenti che si sono messi insieme proprio con il passare di così tanti anni, e questo che rende la cosa scandalosa, che siano stati anni ed anni di bugie su un tema così delicato che ha coinvolto tutte le persone americane, ma poi non solo. Sì. Oh Margherita, tu hai una grande passione per Spielberg e so che hai avuto anche modo di incontrarlo. Ci racconti un po' dal tuo punto di vista personale, quali sono gli elementi che più hai apprezzato di questo film? Allora, io sicuramente nasco come comunque persona che ama molto il cinema di Spielberg in generale. Questo film è bello secondo me perché, a parte che ti piaccia o meno la tematica che viene trattata, è comunque un film sulle persone, cioè Spielberg è un regista che comunque sonda gli animi delle persone. Lo fa a volte in maniera più semplice, quando, specialmente quando si si vuole interfacciare con i bambini spettatori, lo fa in film invece molto più seri come Munich, quando vuole parlare agli adulti. E questo secondo me è il tratto che lo distingue, cioè un film di Spielberg non si può confondere con un film girato da qualcun altro, perché questa cosa è propria di lui. E ci sono due o tre frasi nel film che sottolineano questo, cioè ascolti quelle frasi, ora non sto a dirle, e tu dici, ah, ok, il film è di Steven Spielberg. Senti, io ho avuto modo di vederlo ieri, sono andato appositamente, avevo perso la proiezione stampa e devo dire che non so se sia tra il suo migliore in assoluto, ma sicuramente tra i capolavori di Spielberg. L'ho Allora trova... siamo qua una mezz'ora a parlare perché trovato un film veramente solido. sì, assolutamente sì. Il film io l'ho trovato coinvolgente, a me poi la tematica, ammetto, piace particolarmente e credo sia uno di quei film che sicuramente piace ad un pubblico adulto, cioè dai miei genitori, quindi a persone che hanno vissuto veramente quel momento storico e se lo ricordano, però è un film che secondo me può arrivare veramente ad un pubblico anche più giovane, perché poi di fatto è un thriller ben fatto ed è un film sulle persone, cioè anzi ti può portare ad incuriosirti se non sai qualcosa di quel periodo, dire ma fammi andare a vedere di che cos'è che parla, che cos'è che è successo in quel momento. Ed è bello perché l'ho appreso però questa volta da un punto di vista che è quello degli editori, cioè di chi stava dalla parte del giornalista, ma come essere umano, non per forza come giornalista d'inchiesta. Questa credo che sia la grande differenza, ecco, rispetto a un Tutti gli uomini del presidente, che quello era un film molto più legato alla storia. Questo è un film sulla storia e su quello che succede agli esseri umani che di fatto sono coinvolti e sono parte integrante di quella storia. Con una grande capacità di emozionare, infatti. Assolutamente sì. Margherita, io ti ringrazio e ricordiamo il film The Post di Steven Spielberg nelle sale dallo scorso giovedì. Un abbraccio e a risentirci presto. Mille, grazie a voi, buon lavoro a tutti, arrivederci. Ok, è andata. Senti Margherita, poi ti giro anche il post dell'intervista. Ce l'hai un profilo Facebook? Ok, Margherita Forleo. perfetto, ti mando tutto lì allora. Ok, ti ringrazio Ok. tanto e poi quando sono questi argomenti poi potresti a parlarti anche di film. Lo dico così, sappilo. No, veramente un gran film, sono veramente contento di averlo visto. Aiuta proprio a chiacchierare, cioè uno potrebbe stare qua col vino lungo e chiacchierare di storia, di cinema. Insomma, vi ringrazio Un molto. abbraccio, ciao. A te, ciao Federico, ciao, Ciao. ciao, ciao.